ad alta voce. Anna Maria Guarnieri legge Cime tempestose di Emily Bronte. Traduzione di Margherita Giacobino. Informai il signor Linton che sua sorella era arrivata a Cime tempestose e mi aveva scritto, esprimendo il suo dispiacere per le condizioni della signora Linton e il suo ardente desiderio di rivederlo e la speranza che lui le facesse avere al più presto, per mezzo mio, un segno del suo perdono. «Perdono», disse Linton, «non ho niente da perdonarle, Ellen. Puoi andare a Cime tempestose questo pomeriggio, se vuoi, e dirle che non sono arrabbiato, ma addolorato di averla persa, soprattutto perché non riesco a pensare che possa essere felice. È fuori discussione che io vada a farle visita. Siamo separati per sempre». «E non le scrive neppure un bigliettino?» chiesi supplichevole. «No», rispose, «è inutile. I miei rapporti con la famiglia di Heathcliff saranno ridotti al minimo, come i suoi con la mia. Saranno inesistenti». Entrai a Cime tempestose senza bussare. Quella sala, un tempo accogliente, era uno spettacolo mai visto di squallore e desolazione. Devo confessare che se fossi stata al posto della mia giovane signora avrei perlomeno spazzato il camino e spolverato i tavoli con uno strofinaccio. Ma lei si era già lasciata contagiare da quello spirito di incuria che la circondava. Il suo bel viso era pallido e inespressivo e non si era arricciati i capelli. Alcune ciocche cadevano giù in disordine, altre erano raccolte alla meglio sulla nuca. E probabilmente non si era tolta il vestito dalla sera prima. Hindley non c'era. Il signor Heathcliff sedeva a un tavolo e sfogliava alcune carte nel suo portafoglio, ma al vedermi si alzò, mi chiese amichevolmente come stavo e mi offrì una sedia. Lui era la sola cosa là dentro ad avere un aspetto decente. Anzi, non l'avevo mai visto in condizioni migliori. «Se hai qualcosa per Isabella», disse, «e certamente ce l'hai, daglielo, Nelly. Non è necessario tenerlo segreto. Non ci sono segreti tra noi». «Non ho nulla», risposi, pensando che fosse meglio dire subito la verità. «Il mio padrone mi ha ordinato di dire a sua sorella che per il momento non deve aspettarsi né una lettera né una visita da lui. Manda a dire che le vuole bene, signora, e che le augura ogni felicità e la perdona per il dolore che ha causato, ma pensa che d'ora in poi non dovranno esserci più rapporti fra la sua casa e questa, perché non ne verrebbe nulla di buono». Le labbra della signora Heathcliff tremarono lievemente e tornò a sedersi alla finestra. Suo marito venne a mettersi accanto a me davanti al camino e cominciò a farmi domande su Catherine. «La signora Linton si sta appena riprendendo», dissi. «Non sarà mai più com'era, ma è fuori pericolo. E se le vuole davvero bene, eviti di mettersi di nuovo sulla sua strada. Anzi, se ne vada lontano da questo paese. E perché non abbia rimpianti, le dirò che tra la Catherine Linton di adesso e la sua vecchia amica Catherine Earnshaw c'è la stessa differenza che c'è fra me e quella giovane signora. È cambiata molto esteriormente e ancor più interiormente. E la persona che per necessità deve starle accanto, d'ora in poi potrà alimentare il proprio affetto solo col ricordo di ciò che è stata. Aggiungo, signor Heathcliff, che un altro incontro tra lei e il padrone ucciderebbe la signora». «Nelly», disse Heathcliff, «vorrei che tu fossi abbastanza sincera da dirmi se Catherine soffrirebbe molto per la sua perdita. È questa la paura che mi trattiene. Vedi la differenza tra i nostri sentimenti? Se lui fosse stato al mio posto e io al suo, pur odiandolo di un odio che mi avrebbe avvelenato la vita, non avrei mai alzato una mano contro di lui. Fa pure la faccia di una che non ci crede, se vuoi. Io non lo avrei mai allontanato da lei finché lei avesse voluto averlo vicino. Nel momento in cui a lei non fosse più importato, Oh, allora, gli avrei strappato via il cuore e avrei bevuto il suo sangue. Ma fino ad allora, e se non mi credi, non mi conosci, fino ad allora sarei morto a fuoco lento prima di torcergli un capello. Eppure, lo interruppi, non le viene lo scrupolo di distruggere le sue speranze di una completa guarigione, costringendola a ricordare, proprio adesso, quando ha quasi dimenticato. Tu credi che mi abbia quasi dimenticato? Oh, Nelly, lo sai che non è così. In uno dei periodi più infelici della mia vita lo pensavo. L'idea mi tormentava quando sono tornato da queste parti l'estate scorsa. Ma ora potrei accettare quell'orribile idea solo se fosse lei stessa a darmene la certezza. E allora, che importanza avrebbero Linton o Hindley o tutti i sogni che ho mai fatto? Il mio futuro sarebbe contenuto in due parole: morte e inferno. Se perdessi lei, l'esistenza sarebbe un inferno. Ma sono stato uno stupido a pensare per un solo momento che l'amore di Edgar Linton per lei valesse più del mio. Se lui l'amasse con tutte le forze della sua meschina persona, non potrebbe amarla in 80 anni quanto la amo io. E Catherine ha un cuore profondo come il mio. Per ogni pensiero che rivolge a Linton, ne rivolge 1000 a me. Le è caro appena un po' più del suo cane o del suo cavallo. Non è nella natura di Edgar essere amato come lo sono io. Come può lei amare in lui quello che lui non ha? «Catherine e Edgar si vogliono bene quanto possono volersene due esseri umani», gridò Isabella rianimandosi all'improvviso. «Nessuno ha il diritto di parlare in questo modo e io non me ne starò in silenzio a sentire disprezzare mio fratello». «Tuo fratello è straordinariamente affezionato anche a te, vero?» osservò Heathcliff, sprezzante. «Ti lascia al tuo destino nel mondo con una prontezza sorprendente». «Lui non sa quanto soffro», rispose lei. «Questo non gliel'ho detto». «Allora qualcosa gli hai detto? Gli hai scritto, non è così?» «Per dire che mi ero sposata, gli ho scritto. Hai visto anche tu il biglietto? E poi? Più niente?» «No. L'aspetto della mia signorina, feci notare, è decisamente peggiorato da quando la sua condizione è cambiata. Nel suo caso è ovvio che qualcuno non la ama abbastanza. Chi sia lo posso indovinare, ma forse non dovrei dirlo». «Io direi che è lei a non amarsi abbastanza», disse Heathcliff. «Si sta trasformando in una vera e propria sciattona. Si è stancata prestissimo di cercare di piacermi. Tu puoi anche non crederci, ma il giorno dopo il nostro matrimonio già piangeva e voleva tornare a casa». «Comunque, se non è troppo elegante, sarà molto più in carattere con questo posto. E io starò attento che non mi faccia fare brutte figure, facendosi vedere in giro». «Beh, signore», ribattei io, «spero che prenderà in considerazione il fatto che la signora Heathcliff è abituata a essere servita e che è stata allevata come l'unica figlia della famiglia, con tutti quanti a sua disposizione. Deve procurarle una cameriera per tenere in ordine le sue cose e deve trattarla con gentilezza. Qualunque cosa pensi del signor Edgar, non può dubitare che la signora Isabella sia capace di vero affetto, altrimenti non avrebbe abbandonato l'eleganza, l'agio e le persone care della sua vecchia casa per adattarsi a vivere in questo posto selvaggio insieme a lei». «Li ha abbandonati perché si è illusa», rispose lui. «Perché ha visto in me un eroe da romanzo e si aspettava un'illimitata indulgenza dalla mia cavalleresca devozione. Mi è difficile considerarla una creatura razionale, vista l'ostinazione con cui ha continuato a travisare la mia personalità e ad agire sulla base delle false impressioni a cui si è affezionata. Ma ora finalmente penso che cominci a conoscermi. Non vedo più quei sorrisi sciocchi e quelle smorfie che mi davano tanto fastidio al principio. Deve aver avuto un meraviglioso colpo di intelligenza per scoprire che io non la amo». Non le ho mai detto bugie in proposito. Non può accusarmi di aver fatto il galante con lei per illuderla. La prima cosa che mi ha visto fare, quando siamo usciti dalla Grange, è stata di impiccare la sua cagnetta. E quando ha chiesto pietà per lei, le prime parole che ho pronunciato erano per dire che mi sarebbe piaciuto impiccare tutta la sua famiglia, tranne una sola persona. Forse ha creduto che quell'eccezione fosse lei. Ma nessuna brutalità è riuscita a disgustarla. Sospetto che abbia un'innata ammirazione per la brutalità. Ora, non è il colmo dell'assurdità, della più totale idiozia da parte di quella cagna penosa, servile, meschina, sognare che io potessi amarla. Di al tuo padrone, Nelly, che in tutta la mia vita non ho mai incontrato una creatura così spregevole. Disonora perfino il nome dei Linton, al punto che a volte ho dovuto sospendere per pura mancanza di inventiva i miei esperimenti su quanto riesce a sopportare. Se vuole andarsene può farlo. Il fastidio della sua presenza supera di gran lunga il piacere che si può ricavare nel tormentarla. Signor Heathcliff, dissi, questi sono discorsi da pazzo e sua moglie molto probabilmente è convinta che lei sia pazzo ed è per questo motivo che finora ha tollerato il suo comportamento. Ma ora che le ha detto che può andarsene, approfitterà senz'altro del permesso. Signora, non sarà stregata dall'amore fino al punto di voler rimanere con lui, non è vero? Sta attenta, Ellen, rispose Isabella. Non devi credere a una sola parola di quello che dice. È un demonio bugiardo, un mostro, non un essere umano. Non è la prima volta che mi dice che posso lasciarlo e io ci ho provato, ma non oso rifarlo. Solo Ellen, promettimi che non riporterai a nessuno questa ignobile conversazione. Qualunque cosa cerchi di farti credere, ciò che vuole è spingere Edgar alla disperazione. Dice che mi ha sposato solo per avere potere su di lui, ma non lo otterrà. Morirò prima di consentirglielo. La mia sola speranza, la mia preghiera è che possa dimenticare la sua diabolica prudenza e uccidermi. L'unico piacere che riesco a immaginare è morire o vederlo morto. «Basta, basta così per adesso», disse Heathcliff. «Se verrai chiamata a testimoniare in tribunale, ricordati le sue parole, Nelly, e guardala bene in faccia. È quasi al punto in cui voglio che arrivi. No, non sei in grado di badare a te stessa, Isabella, in questo momento. E io, in qualità di tuo tutore, devo tenerti sotto la mia custodia, per quanto sgradevole possa essere quest'obbligo. Va di sopra». Devo dire qualcosa a Ellen Dean in privato. Non da quella parte, di sopra ti dico. È questa la strada per andare di sopra, bambina. L'afferrò e la spinse fuori dalla stanza. Poi tornò mormorando. Non ho pietà, non ho pietà. Più i vermi si contorcono, più cresce il mio desiderio di schiacciarli. È come avere mal di denti e più ti fanno male, più li digrigni. Ma lo conosce il significato della parola pietà? Dissi, affrettandomi a riprendere la cuffia. Ne è mai stato sfiorato in vita sua? Metti giù la cuffia, mi interruppe. Non puoi andartene. Vieni qui, Nelly. Devo persuaderti, oppure costringerti ad aiutarmi nel mio piano di vedere Catherine e al più presto. Che non ho cattive intenzioni. Non desidero portare scompiglio, né esasperare o insultare il signor Linton. Voglio soltanto sentire da lei stessa come sta e perché si è ammalata e chiederle se c'è qualcosa che io posso fare per lei. La notte scorsa sono stato per 6 ore nel giardino della Grange e ci tornerò stanotte. Sarò là ogni notte e ogni giorno finché non troverò l'occasione di entrare. Se incontrerò Edgar Linton, non esiterò a metterlo fuori combattimento e gliene darò tante da essere certo che se ne stia tranquillo mentre io sono dentro. E se i domestici faranno resistenza, li allontanerò con queste pistole. Protestai contro l'idea di fare la parte della traditrice nella casa del mio padrone e inoltre cercai di fargli capire quanto fosse crudele ed egoista da parte sua distruggere la tranquillità della signora Linton per la propria soddisfazione. La minima cosa basta sconvolgerla, dissi. È tutta nervi e sono sicurissima che non reggerebbe a questa sorpresa. Non insista, signore, o sarò obbligata a informare il mio padrone di questi progetti e lui prenderà provvedimenti per mettere la casa e i suoi abitanti al sicuro. In questo caso io prenderò provvedimenti per mettere al sicuro te, esclamò Heathcliff. Tu non lascerai Cime Tempestose fino a domattina. Dire che Catherine non potrebbe sopportare di vedermi è una stupidaggine. E in quanto a prenderla di sorpresa, non è ciò che voglio fare. Tu devi prepararla, chiederle se posso venire. Dici che non parla mai di me e che nessuno pronuncia il mio nome in sua presenza. E con chi dovrebbe parlare di me se io sono un argomento proibito in quella casa? Mettiamoci d'accordo subito. Vuoi rimanere qui mentre io faccio pugni con Linton e i suoi lacchè per raggiungere Catherine? O vuoi essere mia amica, come sei stata finora, e fare quello che ti chiedo? Deciditi, perché se insisti in questa tua testarda malevolenza, non c'è motivo che io aspetti un minuto di più. Ebbene, signor Lockwood, io discussi, protestai, per 50 volte gli opposi un netto rifiuto, ma alla fine mi costrinse ad arrivare a un accordo. Mi impegnai a portare una sua lettera alla mia padrona e se lei fosse stata favorevole, promisi che lo avrei avvisato della prima assenza del signor Linton, in modo che potesse venire. E poi per entrare se la sarebbe cavata da solo, io non ci sarei stata e neppure gli altri domestici. Era giusto o sbagliato? Temo che fosse sbagliato, anche se era una soluzione. Pensai che con la mia condiscendenza avrei impedito che scoppiasse un'altra lite e ritenni anche che potesse essere un trauma benefico per la malattia mentale di Catherine. Ciò nonostante, il mio viaggio di ritorno a casa fu ancora meno sereno di quello di andata ed ebbi mille apprensioni prima di potermi decidere a consegnare il messaggio nelle mani della signora Linton.